Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La vita ha spesso, purtroppo per fortuna, molto a che fare con il lavoro che facciamo e viceversa. E il momento in cui ce ne accorgiamo è molto di frequente quello in cui finiscono le vacanze e torniamo a lavorare. Buongiorno a tutti. Oggi, in attesa di cominciare la diretta di Voi Siete Qui, che parte da lunedì prossimo, continuiamo a raccontare delle storie che sono state già raccontate lo scorso anno, nella scorsa stagione, e che noi abbiamo messo insieme per cercare di, usandone due, raccontare un'unica cosa. La puntata di oggi parla proprio di quello, di come il nostro lavoro spesso e volentieri, e soprattutto se ci piace e se ce lo siamo scelti, se abbiamo avuto la fortuna di poterci scegliere il nostro lavoro, entra direttamente nella nostra vita e sgomita e si prende un sacco di spazio. La seconda storia che vi racconteremo oggi è quella di Gilberto, che è un ragazzo molto coraggioso, perché cerca di fare in Italia una cosa che già è complicatissima di per sé, che è innovare, e cerca di farlo nella pubblica amministrazione. Cioè, è un doppio salto carpiato con un ingresso in piscina molto molto arduo. E Gilberto però racconta che cosa ha fatto, perché lo fa e come in qualche modo il suo lavoro stia cominciando a pagare. Nella prima parte invece di questa puntata vi racconto un'altra storia, che è una storia che, da come è raccontata, sembra quasi più che un romanzo, un film, perché Daniele la racconta proprio per immagini. Daniele appartiene proprio a quella categoria di persone che nella vita lavorano e lo fanno con piacere. È un ricercatore, è stato un ricercatore. Il racconto parla di quello, parla di un pezzo di vita negli anni in cui faceva ricercatore scientifico, e ci racconta di come lavorando in una squadra e di come lavorando a lungo per ottenere un obiettivo, la vita alla fine e il lavoro si divida in due giorni molto simili tra di loro, ma anche molto lontani, che sono i giorni buoni e i giorni cattivi. Il suo racconto infatti si intitola Today Good Day. Jean-Pierre, Marie, è ora. Andiamo. Sono le 4 del pomeriggio di una bella giornata del 1988. Mi trovo al quarto piano del Dipartimento di Immunologia dell'Istituto Pasteur di Parigi. Un edificio nuovo di vetro e mattoni, nel quale ci siamo appena trasferiti dai vecchi laboratori. Jean-Pierre si affaccia alla porta del mio minuscolo ufficio con la sua solita aria strafottente. Eliane è la mia tecnica di laboratorio, ma è più di una tecnica, è come una collega. Jean-Pierre è il mio studente, ma è più di uno studente, è un collega, è un amico. Si è laureato in medicina e ora vuole fare un PhD in immunologia. Per questo ha scelto di venire a lavorare nel mio gruppo. È un tipo molto simpatico, scherza sempre, soprattutto nei momenti di tensione. Ecco, oggi ha scherzato tutto il giorno, aspettando che arrivassero le 4 del pomeriggio. Raggiungiamo Eliana al congelatore, che lei ha già aperto per recuperare le cassette contenenti le lastre di autoradiografia che ci apprestiamo a sviluppare. Contengono le stesse lastre che usano i radiologi per le radiografie. Noi però non le usiamo per vedere lo stato dei polmoni o delle ossa. A noi servono per vedere piccoli frammenti di DNA resi radioattivi. Nel 1988 ero ricercatore all'Istituto Pasteur. Lavoravo in un centro di immunologia e in quel periodo eravamo attivi su tre tipi di esperimenti, uno dei quali è quello per cui poi ho raccontato la storia. Chiamiamo l'ascensore che ci porterà al secondo piano interrato, dove si trova la camera oscura che ci permetterà di sviluppare le lastre. In ascensore siamo stranamente zitti e io ripercorro con la mente, in una manciata di secondi, il lungo percorso di lavoro, di ricerca, di studio, di soldi spesi e anche di rischi presi, che si concluderà tra pochi minuti, quando vedremo quelle barrette, ognuna delle quali rappresenta un pezzetto di DNA radioattivo impressionato sullo sfondo azzurro della lastra fotografica. In pratica, se vedremo che tutte le barrette si trovano disposte allo stesso modo, vorrà dire che la nostra teoria era sbagliata. Al contrario, se quelle barrette risulteranno disposte in modo diverso, allora avremo dimostrato che la nostra teoria è giusta. In ogni caso, comunque vada, il risultato cambierà in modo determinante il futuro delle nostre carriere. Tutto questo incominciò 2 anni fa, quando Jean-Pierre venne a chiedermi se poteva fare il suo dottorato con me. Non l'avevo mai incontrato prima, ma mi risultò subito simpatico e sveglio, così accettai. All'epoca lavoravo su 2 progetti di ricerca, ma per lui volevo trovare qualcosa di particolarmente interessante. La cosa più difficile del mestiere di ricercatore è quella di porsi la domanda giusta. Perché se la domanda iniziale è sbagliata, si rischia di lavorare per anni senza alcun risultato. Quella che avevo in mente per Jean-Pierre era veramente interessante, però la risposta era già stata data 20 anni prima. Ed era stata data in modo totalmente convincente. E talmente convincente che lo scienziato che la diede vinse il premio Nobel. Tuttavia in quella risposta c'era qualcosa che non mi aveva mai convinto, specialmente alla luce delle scoperte che vennero fatte negli anni successivi. La mia idea era di porre la domanda in modo diverso e scoprire se la risposta portava alle stesse conclusioni del mio illustre predecessore oppure no. Spiegai tutto a Jean-Pierre e lui sembrò entusiasta e iniziò così a lavorare nel mio laboratorio. Il primo anno scorse senza intoppi e avevamo accumulato abbastanza dati per capire che eravamo sulla strada giusta. Certo, c'erano anche le giornate negative però, quando le cose non funzionavano proprio per niente. Ma anche in queste ci pensava Jean-Pierre a stemperare la depressione. Sentenziava, con un falso accento indiano, «Today, bad day, tomorrow, maybe better». J'ai tout raté dans cette vie et je tremble près de Paris. C'est pas le froid, non pardon, c'est le remords qui me pourrit. Et c'est l'injure, l'imposture, j'ai jamais mis les points sur les i. Et je ne joue que de l'accordéon, alors que je trouve que c'est un instrument pour les. Tutto stava andando nel verso giusto, ci mancava però la prova definitiva. Per ottenere quella prova non c'era altra strada se non quella di poter analizzare il DNA di cellule tutte derivate da una singola cellula. I limiti della tecnologia di allora richiedevano però la disponibilità di milioni di queste cellule. Per ottenere ciò c'era solo un modo: prendere una singola cellula, metterla in una provetta con tutti i nutrienti allora conosciuti e sperare che si potessero dividere decine e decine di volte. In termini scientifici questo viene definito clonazione. Nonostante tutti i nostri tentativi, le singole cellule si dividevano 3, 4, 5, al massimo 8 volte, e poi morivano tutte. Insomma, in ogni caso, mai il numero sufficiente per ottenere la quantità di DNA necessaria. Ecco, in quel periodo, today bad day, tomorrow maybe better era diventata la frase con la quale terminavamo quasi regolarmente le nostre giornate. Fu allora che mi ricordai di Max. Max lo avevo incontrato a un congresso 2 anni prima e benché lavorassimo su cose diverse, avevamo legato subito e passammo una bellissima serata bevendo innumerevoli birre. Lui lavorava a New York in un laboratorio che studiava come alcuni virus possono indurre dei tumori. Per fare questo, loro costruivano dei virus artificiali e aggiungendo o togliendo pezzetti di DNA cercavano di capire quale fosse il gene responsabile per la trasformazione di una cellula normale in una cellula tumorale. La mia idea era che se fossimo riusciti a trasformare le nostre cellule in cellule tumorali, saremmo finalmente riusciti a clonarle. Quindi avevo bisogno di un virus che fosse in grado di trasformare le mie cellule in cellule tumorali. Chiamai Max, gli esposi il problema e gli chiesi se mi poteva aiutare. Lui ci pensò, ma neanche troppo, e mi disse che sì, si poteva fare, ma che il problema era che lui non poteva finanziare il progetto. Quindi l'unica soluzione era che io mi trasferissi da lui nel suo laboratorio a New York e che lavorassi in prima persona al progetto. Gli chiesi una stima dei tempi, lui disse che 6 mesi sarebbero bastati. Ne parlai con Jean-Pierre e Marie e concludemmo che quella era l'unica strada da percorrere. Io sarei andato a New York per il tempo necessario e loro avrebbero continuato i tentativi di clonare queste benedette cellule con metodi convenzionali. I 6 mesi previsti furono in realtà 5 e mi chiedo ancora oggi cosa sarebbe successo se quella mattina, quando sbarcai dal volo New York-Parigi, mi avessero chiesto alla dogana di spiegare che cosa contenessero quelle provette. All'apparenza innocenti, in realtà piene di virus e di cellule tumorali. Da lì il resto fu tutto in discesa e dopo pochi mesi fummo in grado di allestire l'esperimento che ci avrebbe dato la risposta finale. La risposta che tra pochi minuti io, Jean-Pierre e Marie avremmo avuto. Beh, la cosa più bella di fare il ricercatore è riuscire ad avere un'idea e da quell'idea poi riuscire a vedere che si concretizza, che si riesce a dimostrarla. La cosa più difficile è soprattutto quando si hanno degli studenti, riuscire a trovare dei campi di ricerca che per loro siano interessanti da un punto di vista intellettuale e oltretutto che abbiano buone possibilità di raggiungere un obiettivo concreto. L'ascensore arriva, le porte si aprono e dico a Jean-Pierre: speriamo che sia un successo, così potrai finalmente fare la tua tesi e ci potremo liberare di te. Lui mi guarda con aria sorgnone e dice: sai bene che piangerai quando il tuo allievo preferito se ne andrà. Marie sorride. Ognuno sa cosa deve fare, l'abbiamo fatto mille altre volte. Marie entra nella camera oscura dove, con l'aiuto di una debole luce rossa, apre le cassette che contengono i film e li introduce nella macchina sviluppatrice. Io e Jean-Pierre siamo nella stanza accanto, dove i rulli della macchina ci porteranno le lastre ormai sviluppate. Sentiamo il rumore della macchina che parte. Questo vuol dire che Marie ha già introdotto i film. Ora dobbiamo aspettare solo 4 minuti. Ma sembrano un'eternità. Sembra impossibile che solo pochi minuti ci separino da quella che può essere la felicità più assoluta o lo sconforto più intenso. Ecco, Marie ora ci ha raggiunto. Neanche Jean-Pierre ha più voglia di scherzare. Io sento che dovrei dire qualcosa, ma non ci riesco. Sento che dovrei rassicurarli, che anche se le cose andassero male non succederà nulla, ma non ci riesco. Dicono che il vero capo deve comportarsi come tale in qualunque circostanza. Ecco, penso che chi lo dice non sia mai stato un vero capo. Ci sono momenti dove anche mostrare la tua debolezza è una prova di forza. Mentre questi pensieri mi attraversano la mente, le lastre escono trasportate dai rulli. Io le alzo verso la luce per vedere meglio quelle bande. 10 secondi di silenzio. E poi la voce di Jean-Pierre dice: today, good day. E scoppiamo tutti in una risata isterica. Io e Jean-Pierre passiamo la notte a decifrare il significato di quelle bande disposte in modo estremamente diverso. E verso le 4 del mattino ce ne andiamo a casa. Ora Jean-Pierre è diventato primario del centro di immunoematologia di un grande ospedale del nord della Francia. Maria è in pensione nella sua casa della Normandia. E io? Ma questa è un'altra storia. Un teleimasco da occiale fa un segge mise, mise su letto te sa smunte mi mena mise, mise l'aguto che passa per dessuto tu mantello. Sono Silvia, dottore di ricerca in metallurgia. Studio il titanio e soprattutto la sua formabilità plastica e il suo orientamento cristallografico preferenziale. Un saluto. È esattamente questo che voglio. Termini totalmente incomprensibili. Aldo da Udine. Ricerca, due punti, e questo immagino sia il titolo. Analisi comparativa tra lo sviluppo urbano di Venezia e le favelas di San Paolo. Opportunità e debolezze. 349-238-6666. Se siete dei ricercatori o se lo siete stati, che cosa avete cercato? Cosa avete scoperto, se avete scoperto, e magari anche il perché. Io però vorrei partire dalla fine del racconto di Daniele, quando lui dice: io, questa è un'altra storia. Pronto, Daniele? Ciao. Ciao, come stai? Bene, bene, bene, grazie. Senti, ce ne racconti un pezzo di quest'altra storia, poi torniamo lì, poi torniamo a Parigi, all'Istituto Pasteur. Però cosa hai fatto dopo quella scoperta? Ma dopo quella scoperta ho fatto quello che normalmente prevede una carriera di un ricercatore. Sono tornato in Italia dopo tanti anni che ero stato all'estero, mi avevano offerto di dirigere un centro di ricerca a Brescia e poi dopo alcuni anni sono andato a lavorare per un'industria, sempre nel campo scientifico chiaramente, e poi alla fine ho aperto una mia società di biotecnologie, che, vabbè, piccola, troppo piccola per sopravvivere. Esatto. Senti, Daniele, ma questo è l'iter più o meno che si compie, cioè si passa dalla ricerca di base a quella applicata, dove facciamo la differenza, io lo so, faccio il grosso come se lo sapessi, me l'hai spiegato tu prima, cioè la ricerca di base è, dillo tu, è quella universitaria. La ricerca di base è, allora, di solito si fa la distinzione fra ricerca di base e ricerca applicata, in effetti è sbagliato, perché una è conseguente dell'altra. Però diciamo che da noi, siccome tutta la ricerca è un grosso investimento, da noi si tende a fare la ricerca di base nell'ambito universitario e poi la ricerca, diciamo, più applicata nell'ambito industriale. Industriale, sì. E questo è perché in Italia purtroppo l'università e l'industria si parlano molto poco. Perché, per esempio, quello che succede in America, l'industria e l'università interagiscono continuamente. Ma questo vuol dire che l'industria finanzia la ricerca universitaria. Perfetto, esatto. Quindi, però, questo vuol dire anche che la ricerca universitaria è indirizzata dal finanziamento dell'industria. No, perché loro sanno bene che senza la ricerca di base poi non arrivi alla ricerca applicata, perché la ricerca applicata si basa su... Ah, continua ad essere ricerca di base, quindi, di fatto. Di fatto sì, di fatto sì. Senti, la domanda delle domande, però ti ho sotto mano, perché i ricercatori italiani vanno all'estero? Allora, una cosa incredibile è che all'estero è pieno di fantastici ricercatori italiani. Tu pensa che l'NIH, che è l'istituto enorme di ricerca medica in America, Bethesda, c'è addirittura un edificio solo di ricercatori italiani. Ma nel senso che gliel'hanno dedicato e sono tutti lì dentro o semplicemente perché sono talmente... molto apprezzati e vanno tutti lì e vanno lì migliori, chiaramente, cioè è pazzesco addirittura. E poi chiaramente, questo è un esempio, non sono in tutto il mondo. E vanno all'estero perché innanzitutto per questioni anche economiche. E poi perché là trovano uno sbocco della loro ricerca, lo sbocco dell'industria. E non rimangono dei top di laboratorio, in pratica. Ma fino a quando? C'è stato un periodo in cui si faceva ricerca in Italia e la si faceva bene, oppure semplicemente... No, ma guarda che la ricerca di base si fa ancora benissimo in Italia. Ah, ok. Il problema, infatti ci sono anche degli ottimi centri, il problema è che poi questa ricerca non riesce a trovare uno sbocco appunto nella fase applicativa, ecco. Ok, ok. Senti, invece mi dici qual è stata, torniamo là con la scoperta là del 1988, qual è stata la conseguenza immediata di quella scoperta? Cioè, cosa ha portato? Cosa... Ecco, vedi, questo è un esempio tipico della ricerca di base, perché praticamente quello che spiegava questa ricerca era un paradosso, no? Cioè, noi riconosciamo miliardi, tutti gli antigeni dell'universo, che sono miliardi, ma però abbiamo poche cellule fondamentalmente, non abbiamo abbastanza per riconoscere tutti questi antigeni, no? Sono molti di più delle nostre cellule. Che cos'è un antigene, perdonami? L'antigene è quello che viene riconosciuto da un anticorpo, cioè un pezzo di un virus, un pezzo di un batterio. Ah, ok, una cosa che non dovrebbe essere nel corpo, esatto, nell'organismo. Esatto. E ce ne sono stramiliardi, e noi abbiamo un numero limitato di cellule. Noi abbiamo spiegato come con un numero limitato di cellule riesci a riconoscere questi miliardi di... quindi non è vero che una cellula riconosce solo antigene. Ma da questa cosa, come dire, hanno fatto dei medicinali, le persone sono state meglio? No, beh, questo per esempio, adesso detta così brutalmente, potrà avere una grossa implicazione per i vaccini. Ah, ok, quindi diciamo quella era l'immediata conseguenza. Senti, invece, è una questione più personale. Un ricercatore che fa ricerche come queste può permettere di essere ipocondriaco? Cioè, nel senso che uno ha a che fare tutti i giorni con sta roba, no? No. E poi ogni no, volta che ha un dolorino, aia, sarà mica quell'antigene. No, guarda, oggi è diverso. Ma quando, non so, a un certo punto dico anche dei pericoli, no, della ricerca. Sì. Tu pensa, oggi è diverso perché ci sono altri sistemi, ma noi all'epoca lavoravamo con delle quantità di radioattività incredibile, con tutti i virus di questo mondo. Per esempio, noi abbiamo costruito un virus che induceva i tumori nei topi, no? Beh, sta roba che tu arrivi all'aeroporto di Parigi con la valigetta piena di virus è un'immagine da James Bond, quantomeno. Sì, guerra fredda più che altro. Infatti, se tu la pensi, se tu hai quelle paure lì, no, allora proprio nel campo medico no, penso proprio che non puoi essere ipocondriaco. Senti, e poi ti saluto Daniele perché devo mandare la borsa. Sì. E adesso tu fai totalmente altro, hai abbandonato, ti dedichi alla tua vita privata. Sì, mi dedico più che altro alla mia vita privata, che mi dà tante soddisfazioni. C'è un messaggio di una persona che ti conosce, Lucia, che dice: ciao, ho lavorato nel laboratorio di Daniele a Brescia, non lo vedo da 20 anni, forse lui non si ricorda più di me. Eravamo a Combiotech. Benissimo. Benissimo, l'abbiamo anche trovata. Daniele, ti ringrazio molto per la chiacchiera e per la divulgazione scientifica. Grazie a voi. Ciao, buona tutto giornata. Ciao, grazie. Ciao. tre ragazzi: Matteo, un informatico già inserito nel mondo del lavoro, e due economisti, Jason e io, Gilberto, a ridosso della laurea con la prospettiva di un lavoro in qualche multinazionale. Tutto inizia con un periodo di studio in Francia, dove io e Jason ci conosciamo e maturiamo l'idea di abbandonare le carriere aziendali per inseguire un sogno: innovare la pubblica amministrazione. L'idea è quella di realizzare un portale per creare dialogo tra le amministrazioni e i loro cittadini, per facilitare una collaborazione storicamente difficile. Durante i primi incontri con sindaci e assessori proviamo a vendere una piattaforma che in realtà esiste solo sulle presentazioni PowerPoint e nella nostra testa, ovviamente. Andiamo incontro a dei rifiuti, vissuti come delle sconfitte epocali, ma in compenso, quando arrivano i primi riscontri positivi, ci sembra di avere vinto la lotteria. L'idea, cioè, è stata la mia ed è nata perché in famiglia avevamo il problema che dovevamo comunicare dei problemi di servizi al nostro comune e, diciamo, è stata un'avventura capire come poterlo fare. Soprattutto non abbiamo mai ricevuto risposte né informazioni sul fatto che le nostre, diciamo, lamentele, i nostri suggerimenti venissero almeno letti. Andando poi in comune a chiedere le motivazioni, hanno detto che non avevano supporti, strumenti e tecnologie per fare questo passaggio e quindi abbiamo deciso di chiamarlo noi. A un certo punto Matteo decide di licenziarsi da un posto sicuro per sviluppare lui tutta la piattaforma, perché, come è solito dire, un buon bolognese i tortellini se li fa in casa sua. Da quel momento si fa davvero sul serio. Per fortuna arrivano anche i primi riconoscimenti per l'innovazione da parte dell'Unione Europea e della Regione Emilia-Romagna, che sorprendentemente è allo stesso tempo supporter e competitor, con il suo software vecchio di 10 anni. Questi sono i paradossi del mondo pubblico. Il giorno in cui fondiamo la società Jason Ligure Doc alla gestione dei costi, rischia di rimanerci quando deve pagare la parcella al notaio. Per pareggiare le spese festeggiamo il lancio della piattaforma con un piatto di spaghetti al pomodoro e la mezza bottiglia di vino già aperta, perché siamo convinti che tutte le innovazioni nascano a tavola. Le notti le passiamo a disegnare la grafica senza averne minimamente le competenze. Poi, per fortuna, conosciamo Jacopo, che fa il grafico per passione, e in 4 click ci fa risparmiare tante notti insonni. I primi sindaci che mostrano entusiasmo per il nostro progetto spariscono nel nulla, e quelli scettici invece sono quelli che sono diventati nostri clienti e col passare del tempo anche amici. Le mattinate le passiamo a telefonare ai comuni per promuovere il progetto. In genere o veniamo trattati come piazzisti, oppure siamo rimbalzati da un ufficio all'altro, senza trovare mai la persona giusta. La prima vendita la facciamo a un piccolo comune, la seconda vendita a un capoluogo di regione, a conferma del fatto che si può fare e che a volte le dimensioni non contano. I primi due comuni che hanno creduto nel progetto sono il comune di Pieve di Cento in provincia di Bologna e il comune di Trieste. E grazie, diciamo, al loro supporto ovviamente siamo riusciti ad avere le energie e anche l'ottimismo necessario per portare avanti questo progetto e farlo diventare quello che oggi è. Quelli che ci hanno risposto no grazie, secondo me hanno paura del cambiamento e probabilmente non si sono fidati di parlare con dei ragazzi che erano appena usciti dall'università. La grande difficoltà in questo momento è quella di trovare investitori, perché tutti dicono col pubblico è meglio non lavorare e poi pagano con tempi biblici. Non pretendiamo di avere la verità infusa, ma nel nostro piccolo abbiamo le prove del contrario. Certo, ci stanno parecchie delusioni nei premi per l'innovazione alla pubblica amministrazione, il più delle volte vinti da aziende con progetti già vecchi, in cui sarebbero da innovare anche i cosiddetti innovatori del pubblico. Se ci guardiamo indietro, possiamo dire di avere compiuto un viaggio con pochi soldi e tanto lavoro, tante soddisfazioni e altrettante delusioni. Abbiamo incontrato per strada amministratori disinteressati e amministratori illuminati, tanti amici e innumerevoli supporter, ma soprattutto la consapevolezza di aver messo in moto un meccanismo virtuoso che sarà sempre più difficile da arrestare da parte di quelli che ripetono: ma in fondo le cose vanno bene così. I'm much too fast to take that test. Change it. Turn and face the strain. Change it. Don't wanna be a richer man. Change it. Turn and face the strain. Change it. It's gonna have to be a different man. Tre amici vanno ad una festa. Si beve, si balla e si girano video. Il giorno dopo, i tre vogliono condividerli su internet, però incontrano un sacco di difficoltà. E allora, quei tre lì che cosa fanno? Si inventano YouTube. Ma anche... ero in autobus, avrei dovuto lavorare sul mio laptop, ma avevo dimenticato la chiavetta USB. Ero così innervosito che ho iniziato a programmare come un pazzo. In quel pomeriggio sull'autobus è nata la Dropbox, la tecnologia per sincronizzare i file sul web. Storie. Qualche settimana fa abbiamo fatto una puntata sulle leggende metropolitane, su come nascono e come si diffondono. In questo caso però, anche se queste storie hanno qualcosa di leggendario, sono tutte vere. Sono tutte storie che arrivano sempre da là, dalla Silicon Valley, in California, dove è partita la rivoluzione digitale, dove ogni azienda insegna ai propri dipendenti che per avere successo non devi temere di fallire. Più che al profitto, devi puntare a cambiare il mondo. Loro ci provano e qualche volta ci riescono. Il grande sogno moderno parte da là. E un ambiente in particolare è associato a quel sogno. Il garage. Non lo so perché, forse perché è uno spazio piuttosto grande, piuttosto vuoto, forse perché di solito non c'è riscaldamento, quindi bisogna essere scattanti, o forse semplicemente perché è lo spazio più economico che ci si possa permettere. Fatto sta che è nel garage che tutto ha inizio. Sentendo queste storie, moltissimi giovani sognano di svoltare con la grande idea, ma avere la grande idea è molto difficile in generale, e forse lo è ancora di più qui in Italia. Jobs e Wozniak all'inizio vendevano solo il contenuto. Il contenitore, il telaio, non era previsto. Spesso montavano i processori in scatole di legno o di cartone, dove capitava, e le recapitavano direttamente loro, ai clienti. Gerardo, Matteo e Jason, io me li vedo esattamente così. Non so se sono in un garage, ma me li vedo lì, dentro un garage, col pavimento in cemento e una stufa elettrica per scaldarsi d'inverno, a smanettare sui computer e a entusiasmarsi per cose che capiscono solo loro. Me li vedo che provano la piattaforma uno a fianco all'altro facendo finta di essere a chilometri di distanza. Me li vedo telefonare ai comuni, prendere gli appuntamenti, farsi una bella doccia, vestirsi bene e presentarsi agli assessori. Me li vedo mentre montano un fornelletto elettrico per avere sempre la possibilità di farsi un caffè. E con una branda piena di fogli per quando sono troppo stanchi anche per tornare a casa. Il piccolo problema è che l'obiettivo che si sono prefissati è innovare il settore pubblico in Italia. E in questo il fattore eroico sostituisce quello romantico. Questi sono degli eroi. Il loro è un triplo salto mortale. Innovare il primo, in Italia il secondo, l'amministrazione pubblica il terzo. Quando si pensa all'Italia, soprattutto da fuori, si pensa sempre alla luce dell'Italia, al mare, al clima, alla cucina, agli uliveti, la Torre di Pisa, il Colosseo. E quando si pensa alla pubblica amministrazione, soprattutto all'interno dell'Italia, si pensa a cose tipo decidere se a Carnevale sfileranno prima le maschere a piedi o i carri allegorici, o quale carro passa per primo, oppure deliberare se il corso potatura alberi da frutto può mettersi d'accordo per dividere la sala a disposizione con la banda che è rimasta senza sede da quando si è rotto il riscaldamento. E le innovazioni più visibili negli ultimi anni sono le rotonde alla francese al posto dei semafori, i lampioni con le lampade a risparmio energetico e quei cartelloni luminosi, quelli che se vai troppo veloce ti indicano la velocità in rosso e se rallenti in verde. Questi tre giovani dall'estero sono tornati in Italia, in completa controtendenza. Hanno rinunciato a lavorare per qualche grossa multinazionale per provarci, per provare a fare qualcosa di difficile e di difficilmente realizzabile. Qualcosa che però non richiede solo fatica e sacrificio, ma si nutre specialmente di passione. E non avrebbero potuto fare altrimenti. E lo stanno facendo. Le possibilità che incontriamo nella vita non sono per tutti le stesse, ma tutti abbiamo il dovere, nei confronti di noi stessi almeno, di provarci. Ecco, loro ci hanno provato. Siete qui.